Epilogo. Istanbul, Natale 1555. Cuius regio, eius religio. A ogni terra la religione del suo principe. Con i principi si può sempre trattare, concludere buoni affari. Questo è stato deciso ad Augusta 2 mesi fa, siglando un accordo che sancisce la spartizione di beni, territori e confessioni in tutto l'impero. Il nuovo papa Paolo IV lascia ai protestanti i possessi requisiti alla Chiesa fino ad oggi e benedice la pace ritrovata. Così si chiude definitivamente il coperchio che Lutero, il burattino dei nobili tedeschi, aveva sollevato quasi 40 anni fa, dando la stura a decenni di speranze, rivolte, faide e restaurazioni. 40 anni. Tanto è occorso per strappare nuovamente ai popoli la scelta del proprio destino e agli uomini quella della propria fede. Così un'epoca si chiude. Carlo V, stremato, signore di un impero prossimo al collasso, si accinge ad abdicare, lasciando in eredità al giovane Filippo i debiti e le guerre future. Anche la stella dei formidabili Fugger è al tramonto, oscurata da un credito impossibile da riscuotere. Per quasi mezzo secolo hanno finanziato le pretese e le aspirazioni dell'Asburgo. Adesso ne seguiranno la sorte. Cuius regio, eius religio. Chi non ha accettato di mettere sopra la propria testa un principe o di legarsi a una sola terra, non ha scelta. La sorte dei giudei a Venezia ne è stato l'esempio. Quando i Talmud sono stati bruciati in Rialto, il 21 agosto del 53, Joao era già riuscito a procurare una via di fuga a Oriente a quasi 1 migliaio di giudei sefarditi. Dopo l'editto di Giulio III, i roghi, gli arresti, il ghetto, non c'è stato più nulla da fare. Oggi lo stesso sta accadendo altrove, per mano di Paolo IV. Heinrich Gresbeck lo sapeva. Venezia porterà il peso di tutto questo, di aver ceduto il campo alla persecuzione più ipocrita e feroce. Il popolo della Bibbia porta via con sé il tesoro dell'esperienza, il sapere, la perizia, verso un'ennesima fuga. Per loro si apre la porta di un altro impero, che li accoglie, riconoscendone il valore. Ma insieme ai giudei se ne vanno anche molti cristiani. Altri uomini e donne senza terra gettano la vita oltre le sponde del Mediterraneo, in mezzo a quegli infedeli che ci hanno insegnato a odiare e che adesso, unici, ci accettano senza pretendere atti di fede. Il loro sovrano indiscusso, Solimano il Magnifico, il cui nome appena mormorato basta far rabbrividire ogni veneziano, è l'uomo più ricco e potente del mondo, padrone di un impero che si estende dalla Crimea alle colonne d'Ercole, dall'Ungheria a Baghdad. Acuto conoscitore di uomini e di popoli, siede sul trono che fu di Costantino, con l'aura del guerriero invitto e del saggio tiranno. Non si può comparire al suo cospetto senza pensare che è il conquistatore della Mesopotamia, che è colui che ha portato le sue truppe sotto le mura di Vienna, che ha combattuto Carlo V a Mohax, l'uomo che con un solo cenno del capo potrebbe chiudere le vie dei commerci con l'Oriente, riducendo Venezia a una piccola cittadina portuale. Se mi chiederà del continente che i suoi possedimenti lambiscono, gli racconterò la mia storia, cullando il convincimento che saprà apprezzarla più del resoconto di un ambasciatore. Non ci sono insegnamenti da trarne, non c'è alcun piano da seguire. Sono ancora vivo, ecco tutto. Con l'altra metà del mondo, quella lontana terra che ho visto scivolare via dietro le nebbie di un giorno d'inverno, non ho più nulla da spartire. La lascio ai principi, che rinsaldano i loro troni e scelgono quale fede dovranno seguire i sudditi. Ai nuovi banchieri che si accingono a prendere il posto dei Fugger, recitando a memoria i testi di Calvino. A Calvino stesso, che mette a rogo Michele Serveto, scienziato e teologo. La lascio agli inquisitori, che bruciano i libri. A Reginald Paul, ieri paladino della conciliazione, oggi arcivescovo di Canterbury, persecutore di protestanti in Inghilterra. Ma più di tutti, la lascio all'architetto del piano che si realizza, a Giovanni Pietro Carafa, salito al soglio pontificio col nome di Paolo IV, all'età di 79 anni, il 23 maggio del 1555. Ancora a letto? Non l'ho sentita entrare nella stanza. Mi giro con un mugugno. Beatrice inclina la testa per guardarmi negli occhi. Il sultano non sarà contento di dover attendere 2 infedeli del vostro calibro. Seduto sul letto, con un braccio le cingo la vita, con l'altro la imprigiono in una stretta forte. Fai attendere i potenti e dimostrerai loro che non li temi. Sì, e ti staccheranno la testa dal collo. Ridiamo. Mi tiro su e raggiungo la stanza da bagno, il sollievo della mia vecchiaia. Ogni volta che metto piede qui dentro, almeno due ogni giorno, provo un misto di commozione e compiacimento per la mia condizione. Piastrelle blu e verde mare rilucono sul pavimento e sulle pareti. La grande vasca occupa un intero lato, per due braccia di larghezza. Può essere irrigata in maniera continua, da due tubi che versano acqua calda o fredda. L'acqua, riscaldata in una cisterna al piano di sopra, viene fatta defluire a piacimento e mescolata a quella fredda che scende dall'altro tubo. In questa città di sogno, i bagni sono indice di una civiltà superiore e di una considerazione del corpo e dell'igiene sconosciuta in Europa. Ve ne sono dovunque, di ogni grandezza e concezione, tutti però adatti a ritemprare le membra e la mente dalla fatica e dal clima. Mi immergo nel tepore, immobile, che il sultano aspetti. Yosef mi fa sobbalzare, irrompendo nella stanza col tutto il clamore possibile. «Non sarai mica annegato, vecchio!» Sfoggia il suo miglior vestito, gli stivali preferiti, alti al ginocchio, braghe larghe, chiare, una blusa lunga, imbottita, con i ricami sul petto, il coltello ricurvo alla cintura, l'elsa interziata, il copricapo tipico di queste terre avvolto sulla testa, azzurro, con una piuma bianca fissato da una spilla d'oro. «Ci sono altre persone che dobbiamo incontrare prima del sultano, sbrigati! Samuele ci aspetta da un pezzo. Gli agi di questa città ti stanno facendo diventare pigro!» Scaglia un pezzo di sapone nell'acqua, schizzandomi la faccia. Mi porge il grande telo. «Muoviti!» Nel grande bazar coperto puoi trovare ogni cosa. Dopo aver camminato tra una miriade di banchi e stretti corridoi che si aprono tra le botteghe, al seguito di Samuele e Yosef che guidano i miei passi inesperti, entriamo in un locale che espone spezie e granaglie. Aromi di ogni tipo investono l'olfatto. Intorno vi sono tavolini bassi, tappeti e cuscini, occupati da uomini intenti agli affari, alle chiacchiere e al narghilè. Due grassi e sorridenti ottomani ci vengono incontro con ampi inchini. Uno abbraccia calorosamente Yosef, poi si rivolge all'altro. «Costui è il molto onorevole Yosef Nassi, una leggenda, e questo è suo fratello Samuele, non meno valoroso». Si illumina. A Venezia questi uomini, conosciuti come Joao e Bernardo Miquez, sono considerati i principali nemici della Serenissima, per il fatto di essere da sempre nostri amici. Se tornassero a Venezia, stai pur sicuro che li impiccherebbero alle colonne di San Marco. Ridono di gusto, il compare è visibilmente ammirato. È il turno di Yosef, il sefardita. Tuttavia non escludo ritornarci un giorno. Nonostante i suoi padroni, Venezia è una splendida città. Signori, vi presento il mio socio. Ismael, il viaggiatore del mondo, colui che dalle terre fredde è giunto fino qui, attraverso ogni sorta di avventura, nemico di tutti i potenti d'Europa. I due opulenti mercanti si inchinano di nuovo, con aria deferente. Ci fanno accomodare. Uno di loro comincia a caricare il fornello del narghilè, mentre l'altro prega Yosef di raccontare al socio della sua incredibile fuga da Venezia. «Un'altra volta, siamo attesi a corte e non vorrei sprecare il poco tempo a nostra disposizione in blandi pavoneggiamenti. Meglio parlare di affari». «Certamente!» Un rapido battimani e un ragazzo in tunica bianca porta un vassoio con un bricco fumante e alcune tazze. Il servitore versa un liquido scuro, dal profumo intenso e sconosciuto. Guardo Yosef. Mi parla in fiammingo, la lingua dei remoti giorni di Anversa. «È proprio l'affare di cui dobbiamo discutere. Assaggialo!» Un sorso diffidente. Il liquido caldo scende in gola. Un sapore forte, leggermente amaro. Subito si fa largo una sensazione di vigore e rinnovata acutezza dei sensi. Un sorso più lungo e sulla lingua rimangono i grani posati sul fondo della tazza. «Buono, ma non capisco». «Si chiama Quavè. Si ottiene da una pianta che cresce nelle regioni d'Arabia». Il mercante porge un sacchetto di chicchi verdi. Yosef ne raccoglie una manciata. «Vengono tostati, macinati in polvere e sono già pronti per l'infuso nell'acqua bollente. In Europa ne andranno pazzi». Intuisce la mia perplessità. Il sultano dimostra di apprezzare i servigi e le informazioni che gli forniamo, ma è sempre opportuno avere anche altri progetti e buoni commerci da sviluppare. Credimi, le rozze genti d'Europa apprezzeranno uno dopo l'altro questi piccoli piaceri che rendono la vita degna d'essere chiamata tale. Sorrido e penso alla mia vasca ricolma d'acqua tiepida. Yosef continua. «Qui stanno già nascendo botteghe per la degustazione di bevande rigeneranti, luoghi come questo, dove si conversa, si fanno affari e si fuma il tabacco da queste fantastiche pipe ad acqua. Vedrai, non ci vorranno molti anni per introdurre in Europa simili abitudini. Dobbiamo soltanto cominciare a far viaggiare sulle nostre tratte commerciali i sacchi di questi preziosi chicchi e illustrarne l'utilizzo. Europa non ama i piaceri, Yosef, lo sai. Europa è finita. Ora che si sono messi d'accordo, ricominceranno a farsi la guerra, coltivando il sogno di una barbara supremazia. A noi rimane il mondo. Il ragazzo riempie di nuovo la tazza. Tiro un'ampia boccata di fumo dalla canna del narghilè. Le membra si rilassano, sprofondano nel cuscino. Sorrido. Non esiste un piano che possa prevedere tutto. Altri solleveranno il capo. Altri diserteranno. Il tempo non cesserà di elargire sconfitte e vittorie a chi proseguirà la lotta. Sorseggio soddisfatto. Ci spetta il tepore dei bagni. Possano i giorni trascorrere senza meta. Non si prosegua l'azione secondo un piano.